giovanotti, addio, addio giovanotti belli, l'amor sui ponticelli, l'amor sui ponticelli. Addio giovanotti, addio, addio giovanotti belli, l'amor sui ponticelli non la fare mai più. L'amor non l'ho mai fatta, nemmeno la faria, la faccio a casa mia, la faccio a casa mia. L'amor non l'ho mai fatta, nemmeno la faria, la faccio a casa mia, con il mio primo innamorato. Tu credevi che io t'amassi, e invece t'ho lasciato, caramelle t'ho ciucciato, caramelle t'ho ciucciato. Tu credevi che io t'amassi, e invece t'ho lasciato, caramelle t'ho ciucciato, che gelati in quantità. È passato 40 giorni per passare un quarto d'ora, e adesso è giunta l'ora, e adesso è giunta l'ora. È passato 40 giorni per passare un quarto d'ora, e adesso è giunta l'ora, e noi andiamo a casa. Oi la candumaca, oi la candumaca, oi la candumaca, a veder come la va. Se la va bene, se le mondine vanno a casa, li metteremo